37esima traccia. Alla fine, più o meno col suo tono di voce ordinario, egli disse: «Non ho nutrito mai un'alta opinione di Frank Churchill. Posso tuttavia supporre d'averlo valutato al di sotto del suo merito. Non ho avuto di lui che una conoscenza superficiale, e anche se finora non l'ho sottovalutato, può essere che faccia una buona riuscita. Con una donna come quella ha un'opportunità. Non ho alcun motivo di volergli male, e per causa di lei, la cui felicità dipenderà dalla bontà del suo carattere e della sua condotta, certamente io gli auguro ogni bene». «Non dubito che saranno felici insieme», disse Emma. «Credo che l'attaccamento tra loro sia reciproco e sincero». «È un uomo proprio fortunato», riprese Mr. Knightley con energia. «A un'età così giovanile, a 23 anni, un periodo in cui, se un uomo si sceglie una sposa, di solito fa una cattiva scelta. A 23 anni aver tirato a sorte un premio simile. Che anni di felicità costui, fin dove può giungere il calcolo umano, ha dinanzi a sé. Sicuro dell'amore d'una tal donna, amore disinteressato, perché il carattere di Jane Fairfax garantisce il suo disinteresse. Ogni cosa in suo favore, parità di posizione, voglio dire, per ciò che riguarda la società e tutte le abitudini e le maniere che importano. Parità sotto ogni profilo salvo uno, e quell'uno, dal momento che non può dubitarsi della purezza del cuore di lei, di tal natura da accrescere la sua felicità, perché egli sarà felice di conferirle gli unici vantaggi che le mancano. Un uomo desidererebbe sempre di dare a una donna una casa migliore di quella da cui la prende, e colui che può farlo, laddove non c'è dubbio sull'affetto di lei, deve, io credo, essere il più felice dei mortali. Frank Churchill è in verità il favorito della fortuna. Ogni cosa riesce per il suo bene. Si incontra con una ragazza a una stazione d'acque termali, si guadagna il suo affetto, non la stanca neppure col suo trattamento negligente, e se lui e la sua famiglia avessero cercato per il mondo intero una moglie perfetta per lui, non ne avrebbero potuto trovare una migliore. C'è una zia che costituisce un ostacolo. La zia muore. Egli non ha che da parlare. I suoi amici si fanno in quattro per renderlo felice. Egli ha trattato male tutti, e tutti sono lietissimi di perdonarlo. È un uomo davvero fortunato. Parlate come se li invidiaste. E lo invidio, Emma. Per un certo verso, egli è l'oggetto della mia invidia. Emma non poté dir altro. Pareva come se un'altra mezza frase sarebbe bastata a introdurre il tema di Harriet. Il sentimento immediato di Emma fu di evitarlo. Essa fece il suo piano. Avrebbe parlato di qualcosa di interamente diverso, i bambini di Brantley Square, e non aspettava che il momento per aprir bocca, quando Mr. Knightley la fece trasalire dalla sorpresa dicendo: «Non volete chiedermi quale sia il motivo dell'invidia? Vedo che siete decisa ad astenervi da ogni curiosità. Siete saggia, ma io non posso esserlo. Emma, debbo dirvi ciò che non volete chiedermi, sebbene io possa desiderare un momento dopo di non averlo detto». «Oh, allora non lo dite, non lo dite», esclamò lei con fervore. «Aspettate un poco, rifletteteci su, non compromettetevi». «Grazie», disse lui con accento di profonda mortificazione, e non seguì altra sillaba. Emma non poteva tollerare di addolorarlo. Egli desiderava di confidarsi con lei, forse di consultarla. Qualunque cosa dovesse costarle, essa doveva ascoltare. Avrebbe potuto confortare la sua decisione o fare che ci si rassegnasse. Avrebbe potuto tributare le debite lodi a Harriet o, argomentando in favore della sua indipendenza, sollevarlo da quello stato di indecisione che doveva essere più intollerabile di ogni alternativa a una mente come la sua. Frattanto erano giunti alla casa. «Voi andate dentro?» «Voi andate dentro, suppongo», disse lui. «No», rispose Emma, del tutto decisa dal tono abbattuto in cui gli ancora parlava. «Mi piacerebbe di fare un altro giro. Mr. Perry non se n'è andato». E dopo aver fatto pochi passi, ella aggiunse: «Vi ho fermato orora con poco garbo, Mr. Knightley, e temo vi ho addolorato. Ma se avete qualche desiderio di parlarmi come a un'amica o di chiedermi il mio parere su qualcosa che avete in mente, come amica davvero sono ai vostri ordini. Starò a sentire quel che volete. Vi dirò esattamente ciò che penso». «Come un'amica», ripeté Mr. Knightley. «Emma, questa, ho paura, è una parola. No, non desidero affatto. Un momento, perché dovrei esitare? Mi son già spinto troppo oltre per poter nascondere». «Emma, accetto la vostra offerta. Per straordinario che sembra, l'accetto e mi rivolgo a voi come a un'amica. Ditemi dunque, non ho qualche possibilità di poter riuscire?» Si fermò nel suo fervore per assumere un'aria che esprimeva la domanda, e l'espressione dei suoi occhi la sopraffece. «Mia carissima Emma», gli disse, «perché carissima sarete sempre, quale che sia il risultato di quest'ora di conversazione. Mia carissima, mia adorata Emma, ditemi subito. Dite no se deve essere detto». Essa realmente non poteva dir nulla. «State zitta», egli esclamò con grande ammirazione, «assolutamente zitta. Adesso io non chiedo altro». Emma era quasi in procinto di soccombere all'agitazione del momento. Il timore di venire risvegliata dal più felice dei sogni era forse il suo sentimento dominante. «Io non so far discorsi, Emma», riprese egli subito, e in un tono di tenerezza così sincero, deciso ed evidente da riuscire abbastanza convincente. «Se io vi amassi meno, sarei capace di parlarne di più. Ma sapete come sono. Da me non udite altro che verità. Io vi ho biasimata, vi ho fatto prediche, e voi l'avete tollerato come nessun'altra donna in Inghilterra l'avrebbe tollerato. Sopportate le verità che vorrei dirvi adesso, mia carissima, come avete sopportato le altre. La maniera forse può aver altrettanto poco da raccomandarle. Dio sa, io sono stato un innamorato molto mediocre, ma voi mi capite. Sì, vedete, voi capite i miei sentimenti e li ricambierete se potrete. Per il momento non chiedo che di udire di nuovo la vostra voce». Mentre egli parlava, la mente di Emma era affaccendatissima e con tutta la meravigliosa rapidità del pensiero era riuscita, eppure senza perdere una parola, ad afferrare e comprendere l'esatta verità di tutto, a vedere che le speranze di Harriet erano state interamente senza fondamento, un errore, un abbaglio così completo come quelli di lei stessa, che Harriet non era nulla, che lei stessa era tutto, che ciò che aveva detto relativamente a Harriet era stato preso per il linguaggio dei suoi propri sentimenti e che la sua agitazione, i suoi dubbi, la sua riluttanza, il suo scoraggiamento erano stati tutti presi come scoraggiamento da parte di lei stessa. E non solo ci fu tempo per queste convinzioni, con tutto l'ardore di felicità che le accompagnava. Ci fu tempo anche per rallegrarsi che il segreto di Harriet non le fosse sfuggito e di decidere che non occorreva che lo palesasse, che non doveva palesarlo. Era tutto il servigio che poteva rendere alla sua povera amica, che, quanto a quell'eroismo di sentimento che avrebbe potuto suggerirle di implorarlo di trasferire il suo affetto da lei a Harriet, come infinitamente la più degna delle due, o anche alla più semplice sublimità di risolvere di dirgli di no una volta per tutte senza consentire a dirne la ragione, poiché egli non poteva sposare entrambe, quell'eroismo, questa sublimità Emma non li aveva. Le dispiaceva per Harriet, ne sentiva pena e costrizione, ma non le passò per la mente alcun volo di generosità impazzita, contrastando a quanto poteva essere probabile o ragionevole. Essa aveva guidato male l'amica e non avrebbe cessato mai di rimproverarselo, ma il suo giudizio era forte come i suoi sentimenti e forte quanto era stato per l'innanzi nel riprovare per lui un matrimonio di quel genere, come troppo disparato e degradante. La sua strada era chiara, sebbene non del tutto liscia. E allora, così pregata, parlò. Che cosa disse? Naturalmente ciò che doveva. Una signora fa sempre così. Disse abbastanza da mostrare che non c'era da disperare e per invitarlo a dire di più lui stesso. Lui a un certo momento aveva disperato. Aveva ricevuto una tale ingiunzione di cautela e di silenzio da soffocare per il momento ogni speranza. Essa aveva cominciato col rifiutare d'ascoltarlo. Il cambiamento era stato forse alquanto subitaneo. La proposta di lei di fare un altro giro, il suo riprendere la conversazione a cui aveva appena posto fine, potevano apparire alquanto straordinari. Essa sentì l'incoerenza di quel cambiamento. Ma Mr. Knightley fu così cortese da passarci sopra e da non cercare altra spiegazione. Di rado, ben di rado, la verità completa s'addice alle confessioni umane. Di rado può avvenire che non si mascheri o non si travisi qualcosa. Ma laddove, come in questo caso, sebbene sia travisata la condotta, i sentimenti non lo sono, la cosa può aver poca importanza. Mr. Knightley non poteva attribuire ad Emma un cuore più cedevole di quel che non possedesse, o un cuore più disposto ad accettare il suo. Egli di fatto non aveva minimamente sospettato la propria influenza. L'aveva seguita nel vivaio senza alcuna idea di provare quel che tale influenza potesse. Era venuto nella sua ansia di vedere come essa sopportasse il fidanzamento di Frank Churchill, senza scopo egoistico, senza altro scopo che di tentare, se ella gliene avesse offerto lo spunto, di calmarla e di consolarla. Il resto era stato opera del momento, l'effetto immediato sui suoi sentimenti di ciò che aveva udito. L'assicurazione che lo riempì di gioia della totale indifferenza di lei per Frank Churchill, della completa libertà del suo cuore nei suoi confronti, aveva fatto nascere la speranza che, in seguito, egli stesso avrebbe potuto guadagnare il suo affetto. Ma non era stata una speranza immediata. Egli aveva soltanto, nel momentaneo sopravvento dell'ardore sul giudizio, aspirato a sentirsi dire che ella non gli vietava di conquistare il suo affetto. Le più alte speranze che si erano schiuse ad un tratto erano state tanto più incantevoli. L'affetto che egli aveva chiesto di avere il permesso di creare, se lo poteva, l'aveva già ottenuto. Nello spazio di mezz'ora egli era passato da uno stato d'animo del tutto angoscioso a qualcosa di tanto simile a una felicità perfetta che non potrebbe chiamarsi con altro nome. Eguale fu il cambiamento di lei. Quest'unica mezz'ora aveva dato a ciascuno di loro la stessa preziosa certezza di essere amato. Aveva dissipato in ciascuno lo stesso grado di ignoranza, di gelosia, di sfiducia. Da parte di lui c'era stata una gelosia di vecchia data, che risaliva all'arrivo o perfino all'attesa di Frank Churchill. Egli era stato innamorato di Emma e geloso di Frank Churchill, pressappoco dallo stesso periodo, che l'un sentimento l'aveva probabilmente illuminato circa l'altro. Era stata la gelosia per Frank Churchill a farlo partire. La gita a Box Hill l'aveva deciso. Voleva risparmiarsi la vista di nuove attenzioni permesse, incoraggiate. se n'era andato per imparare ad essere indifferente, ma era andato in un posto sbagliato. C'era troppa felicità domestica nella casa del fratello. La donna vi faceva una figura troppo amabile. Isabella era troppo simile ad Emma. Ne differiva solo in quelle inferiorità che colpivano e che sempre facevano risaltare ai suoi occhi l'eccellenza dell'altra, perché quel soggiorno operasse qualche effetto, anche se fosse durato più a lungo. Tuttavia, aveva continuato a restarvi tenacemente, un giorno dopo l'altro, finché la posta della mattinata di quel giorno stesso aveva recato la storia di Jane Fairfax. Allora, insieme con la Letizia, che doveva essere sentita, sì, che egli non aveva nessun scrupolo di sentire, non avendo mai creduto che Frank Churchill meritasse Emma, c'era stata tanta tenera sollecitudine, tanta ansia per lei, che egli non era potuto rimanere oltre. Era tornato a cavallo sotto la pioggia e subito dopo pranzo si era recato a piedi a Harfield per vedere come la più dolce e la migliore di tutte le creature, irreprensibile nonostante tutti i suoi difetti, tollerasse la scoperta. L'aveva trovata agitata e abbattuta. Frank Churchill era un mascalzone. L'aveva udita dichiarare che essa non l'aveva mai amato. La figura morale di Frank Churchill non era così malvagia. Essa era la sua Emma, impegnatasi con la mano e con la parola quando essi rientrarono in casa. E se egli avesse potuto pensare a Frank Churchill allora, forse l'avrebbe ritenuto un ragazzo assai per bene. Che sentimenti totalmente diversi Emma riportò in casa da quelli coi quali ne era uscita. Allora non aveva osato sperare altro che un po' di sollievo dalla sofferenza. Ora si trovava in una squisita agitazione di felicità, ed una tale felicità per giunta quale credeva che sarebbe stata anche maggiore una volta passata l'agitazione. Si sedettero a prendere il tè. Lo stesso gruppo di persone intorno alla stessa tavola, quante volte si era raccolto? E quante volte i suoi occhi erano caduti sulle stesse piante nel prato e avevano osservato lo stesso magnifico effetto di sole calante. Ma non mai in tale stale di spirito, non mai in qualcosa di simile. E fu con difficoltà che essa poté chiamare raccolta abbastanza della se stessa ordinaria da essere l'attenta signora di casa o perfino l'attenta figlia. Il povero Miss Woodhouse era mille miglia dal sospettare ciò che si stava tramando contro di lui nel petto di quell'uomo che egli accoglieva così cordialmente e che sperava con tanta sollecitudine che non si fosse presa un'infreddatura nella sua cavalcata. Se ne avesse potuto vedere il cuore, gli sarebbe importato ben poco dei polmoni, ma senza la più lontana idea del male imminente, senza la minima percezione di qualcosa di straordinario nell'aspetto o nei modi di quei due, egli ripeté loro, con tutto agio, tutte le novità che aveva preso da Mr. Perry e seguitò a parlare con sua grande soddisfazione, non sospettando affatto la notizia che essi avrebbero potuto dargli in cambio. Finché Mr. Knightley rimase con loro, continuò la febbre di Emma, ma quando egli se ne fu andato, essa cominciò a tranquillizzarsi e a moderarsi, e nel corso della notte insonne, con la quale scontò una sera come quella, essa trovò due punti così seri da considerare, da farle sentire che perfino la sua felicità doveva avere qualche spina. Suo padre e Harriet non poteva essere sola senza sentire l'intero peso delle loro distinte pretese. E come tutelare al massimo il benessere d'entrambi era il problema. Quanto a suo padre, la risposta era presto fatta. Essa non sapeva ancora che cosa avrebbe chiesto Mr. Knightley. Ma una breve consultazione del suo proprio cuore ebbe per conseguenza il più solenne proposito di non abbandonare mai il padre. Pianse persino alla sola idea, come per un peccato di pensiero. Mentre egli viveva, doveva essere solo un fidanzamento, ma essa si lusingava che, se fosse stato spogliato del pericolo che lei se ne andasse, codesto fidanzamento sarebbe potuto divenire per lui una fonte di benessere. Come poter fare del suo meglio per Harriet era una questione più difficile. Come risparmiarle ogni pena non necessaria? Come farle ogni riparazione possibile? Come apparire il meno possibile la sua nemica? Su codesti temi la sua perplessità e la sua pena erano grandissime. E la sua mente dovette passare e ripassare attraverso ad ogni amaro rimprovero e ad ogni doloroso rammarico che l'avesse mai assediata. Poté solo pensare, alla fine, di evitare ancora di incontrarla e di comunicare per lettera tutto ciò che doveva essere detto, che sarebbe stato, oltre ogni dire, desiderabile se proprio ora si fosse potuto far allontanare Harriet da Ivory e, abbandonandosi ancora a un altro piano nei suoi riguardi, pensò quasi che sarebbe stato possibile procurarle un invito a Brunswick Square. A Isabella Harriet era riuscita simpatica e qualche settimana a Londra avrebbe potuto procurarle qualche divertimento. Essa non riteneva che fosse nell'indole di Harriet di mancare di risentir beneficio dalla novità e dalla varietà, dalle strade, dai negozi e dai bambini. In ogni caso sarebbe stata una prova di attenzione e di cortesia da parte sua, da cui tutto era dovuto. Sarebbe stata una separazione per il momento, un allontanare il brutto giorno in cui avrebbero dovuto ritrovarsi tutti insieme. S'alzò presto e scrisse la sua lettera a Harriet, un'occupazione che la lasciò così seria, così quasi attristata, che Mr. Knightley, recandosi a Harfield per colazione, non arrivò davvero troppo presto. E mezz'ora carpita poi a ripercorrere con lui lo stesso terreno, letteralmente e metaforicamente, fu proprio necessaria per ridarle una congrua parte della felicità della sera prima. Non l'aveva lasciata da lungo tempo, certo non abbastanza lungo perché ella avesse la minima inclinazione a pensare ad altri, quando le fu portata una lettera da Randalls, una grossa lettera. Ella indovinò quel che doveva contenere e deprecò la necessità di leggerla. Ora ella si era perfettamente riconciliata con Frank Churchill e non desiderava spiegazioni, voleva soltanto tenersi i suoi pensieri per sé e quanto a comprendere quanto egli scriveva era sicura d'esserne incapace. Tuttavia bisognava sobbarcarvici, sì. Aprì il plico. Era proprio così. Una nota di Mrs. Weston a lei introduceva la lettera di Frank a Mrs. Weston. «Ho il gran piacere, mia cara Emma, di inoltrarti la clusa. So che completa giustizia tu le renderai, e non dubito circa il suo felice effetto. Credo che non saremo più sostanzialmente in disaccordo intorno allo scrivente, ma non voglio trattenerti con una lunga prefazione. Noi stiamo benissimo. Questa lettera è stata la cura di tutto il piccolo nervosismo che ho sentito di recente». Non mi piacque del tutto la tua cera martedì, ma era una mattina poco lieta. E sebbene tu non vorrai mai riconoscere d'essere influenzata dal tempo, credo che tutti risentano di un vento di nord-est. Mi preoccupai parecchio per il tuo caro babbo durante la tempesta del pomeriggio di martedì e di ieri mattina. Ma ieri sera ho avuto la consolazione di sentire da Mr. Perry che non l'aveva fatto ammollare. Tua sempre, Weston. A Mrs. Weston, Windsor, luglio. Cara signora, se ieri io mi son fatto capire, questa lettera sarà attesa, ma attesa o no, so che sarà letta con candore e indulgenza. Voi siete tutta bontà, ed io credo che ci sarà bisogno perfino di tutta la vostra bontà per scusare certe parti della mia condotta passata. Ma io sono stato perdonato da una che aveva ancor più ragione di risentimento. Mi cresce il coraggio mentre scrivo. è molto difficile per chi ha prospera fortuna essere umile. Ho già incontrato tale successo in due richieste di perdono, che posso correre il pericolo di ritenermi troppo sicuro del vostro e del perdono di quelli dei vostri amici che hanno motivo di ritenersi offesi. Dovete tutti cercare di comprendere la natura esatta della mia situazione quando io arrivai la prima volta a Randalls. Dovete considerarmi come una persona che aveva un segreto da serbare a tutti i costi. Questo era il fatto. Il mio diritto a mettermi in una situazione richiedente tal sotterfugio è un'altra questione. Non starò a discuterla qui. Circa la mia tentazione a ritenerlo un diritto, rimando ogni critico malevolo a una casa in mattoni, con finestre a saracinesca al terreno e finestre abbattenti al piano superiore, a Highbury. Non osavo farle la corte apertamente. Le mie difficoltà, nello stato di cose che allora esisteva a Enscombe, devono essere troppo ben conosciute per aver bisogno di chiarimenti. Ed io fui così fortunato da averla vinta prima che ci separassimo a Weymouth e da indurre la più retta anima di donna che esista a farmi la carità di abbassarsi a un fidanzamento segreto. Se ella avesse rifiutato, ne sarei impazzito. Ma voi direte subito, che speranze avevate facendo ciò? Su che cosa facevate affidamento? Su qualunque cosa, su ogni cosa, sul tempo, sulla fortuna, sulle circostanze, su lenti effetti, su esplosioni improvvise, sulla perseveranza e sulla stanchezza, sulla malattia e sulla salute. Ogni possibilità di bene era dinanzi a me e i primi benefici erano assicurati con l'ottenere le sue promesse di fede e di contraccambio. Se abbisognate di un'ulteriore spiegazione, io ho l'onore, mia cara signora, d'essere il figlio di vostro marito e il vantaggio di ereditare una disposizione a bene sperare che vale più di ogni eredità di case o di terre. Vedetemi dunque, in tali circostanze, arrivare a Randalls per la mia prima visita. E qui ho coscienza di un torto, perché quella visita avrebbe potuto essere fatta prima. Voi getterete uno sguardo indietro e vedrete che io non venni finché Miss Fairfax non fu a Highbury. E siccome la persona trascurata foste voi, mi perdonerete senz'altro. Ma io devo agire sulla compassione di mio padre, ricordandogli che per tutto il tempo che io m'assentai dalla sua casa, io persi il beneficio di conoscervi. Il mio contegno, durante la felicissima settimana che passai con voi, non mi espose, io lo spero, a riprensione, eccetto che su un punto. Ed ora io vengo alla parte principale e alla sola importante della mia condotta, mentre io fui un membro della vostra famiglia, la sola parte che mi causi ansia o richieda una molto diligente spiegazione. Col più grande rispetto e la più calda amicizia, io nomino Miss Woodhouse. Mio padre penserà forse che io dovrei aggiungerle, con la più grande umiliazione. Alcune parole che egli lasciò cadere ieri espressero la sua opinione, e io mi riconosco passabile di qualche biasimo. Il mio contegno con Miss Woodhouse indicava, io credo, più di quanto non avesse dovuto. Per secondare un occultamento che mi era così essenziale, fui indotto a fare un uso al di là del consentito della specie di intimità in cui ci trovammo immediatamente. Non posso negare che Miss Woodhouse era il mio scopo apparente, ma son certo che vorrete prestar fede alla dichiarazione che se io non fossi stato convinto della sua indifferenza, nessuna considerazione egoistica mi avrebbe indotto a seguitare. Amabile e deliziosa qual è Miss Woodhouse, essa non mi ha mai dato l'idea di una giovane donna suscettibile d'attaccamento, e che ella fosse perfettamente libera da qualsiasi tendenza ad innamorarsi di me, era mia convinzione non meno che mio desiderio. Riceveva le mie attenzioni con una gaiezza così spigliata, amichevole, festosa, che era proprio quel che mi ci voleva. Parevamo intenderci. data la nostra relativa situazione nel mondo, quelle attenzioni parevano essere il suo diritto ed erano sentite come tali. Se Miss Woodhouse cominciasse davvero a capirmi prima della fine di quella quindicina, non posso dire. Quando io le feci visita per congedarmi, ricordo d'essere stato lì per confessare la verità. E allora mi immaginai che non fosse senza sospetto. Ma non ho dubbi che in seguito ella non mi scoprisse, almeno in qualche misura. Può non aver sospettato tutto, ma la sua prontezza deve aver indovinato una parte. Non posso dubitarne. Vedrete, quando l'argomento sarà liberato dalle sue restrizioni presenti, che non l'ha colta interamente di sorpresa. Spesso me l'ha fatto capire. Mi ricordo che mi disse al ballo che io avevo un debito di gratitudine verso Miss Sexton per le sue attenzioni a Miss Fairfax.